Il gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata a tutti. Ebbene, oggi parleremo di un argomento credo che interessi un po' tutti i consumatori: il pane. Che pane mangiamo? Questo è un punto molto importante, perché sicuramente è una delle basi della nostra dieta di ogni giorno. C'è molta gente che ama sicuramente il pane più di ogni altra cosa. Bene, ma è vero o falso che mangiamo pane bulgaro congelato senza saperlo? È vero o falso che nelle farine vengono aggiunti dei miglioratori che poi non vengono riportati quando si acquista quel pane, anche se è dimostrato che non sono nocivi? Bene, su questi argomenti io ho ricevuto già moltissime risposte sul sito Gastronauta e devo dire che moltissimi panificatori, panettieri hanno scritto: noi produciamo pane buono e pulito. Bene, nessuno mette in dubbio che ci sia larga parte di gente onesta che produce, ma sicuramente c'è anche parte che così non lo è, perché se le importazioni dai paesi dell'est, soprattutto dalla Romania, stanno aumentando di pane congelato che poi o precotto che poi viene così servito senza sapere che arriva da quel paese, sicuramente anche quello sarà perfetto, non ci saranno problemi di salubrità, però noi non lo sappiamo, acquistiamo un pane che non sappiamo da dove arriva. Ebbene, parleremo di questi argomenti. Numero verde 800 24 0024, messaggi SMS 349 238 6666. Bene, cominciamo con il presidente della Federpanificatori della FIP, che raccoglie, mi sembra, ben 24.000 fornai italiani. Buongiorno a Francesco La Sorsa. Buongiorno a lei. La Sorsa, allora, è vero che arriva tanto pane congelato dai paesi dell'est e che quindi non è che venga scritto che quel pane arriva quando noi lo acquistiamo? È così o è una balla che viene messa, una leggenda metropolitana questa? No, è sempre maggiore la quantità di pane surgelato che arriva dai paesi dell'est e che sta invadendo il nostro mercato, sì. E sotto forma di impasti crudi o come pane precotto surgelato. E non si può controllare, quindi non si sa. Diciamo che chi va al banco del fornaio compra il pane, non sa se arriva da dietro al banco dello stesso fornaio oppure se arriva da altri paesi. Ma più che dal fornaio, questa è una tipologia di pane venduto nella grande distribuzione, più che dal fornaio artigiano, e che come normativa nazionale dovrebbe portare l'etichettatura di pane surgelato o precotto. La cosa che a noi, su cui noi premiamo invece, è il luogo di produzione dell'impasto e la sua data di impasto, perché questa qui come normativa non è ancora regolamentata appieno e che quindi non dà piena certezza dell'acquisto al consumatore finale. Senta, ma voi come federazione avete analizzato questo pane? Avete così fatto delle indagini per sapere appunto se è un pane sano oppure se vengono aggiunti miglioratori o d'altro? Per l'amor di Dio, il pane surgelato è una realtà come tanti altri prodotti surgelati. Va da sé che nel discorso della congelazione e surgelazione per il suo mantenimento, evidentemente più che miglioratori, dei coadiuvanti ci sono per stabilizzarne sotto la problematica lievitante e reologica il prodotto. Quindi qualcosa ci sta sicuramente, ma che sia anche non vietato va da sé. Però per la sua stessa formazione, per la sua stessa conservabilità, necessita di qualche coadiuvante nell'impasto. Certo. Bene, e abbiamo con noi anche un bravissimo panettiere di Carate Brianza, abbiamo Davide Longoni. Buongiorno Davide. Buongiorno Davide. Senti, ma tu non ti senti così sottoposto a concorrenza sleale con questo pane che arriva e sicuramente costa la metà? Tu che fai ricerche, che cerchi di dare il meglio sulle farine, ecco, non ti senti un po' sminuito su questo? Ma onestamente questi pani precotti, surgelati, che vengono venduti poi dalla grande distribuzione ancora caldi, puntano molto sul fatto che il prodotto è ancora caldo. E quindi sono pani ruffiani che, mangiati al momento, possono sembrare anche accattivanti. però vanno molto a perdere nel discorso dei profumi e dei sapori, mentre io lavoro su un discorso opposto, quindi il mio pane è un pane che dura più giorni e punto a lavorare farine in purezza di grani varietà particolari come il farro, il monococco, il camut, e quindi vado a valorizzare i profumi e i sapori. Bene. Che vengono fuori anche dopo molte ore, e quindi il mio pane è un tipo di prodotto che non è in competizione con questo prodotto, quindi si posiziona su posizioni differenti dal punto di vista commerciale. Ecco, rimani con noi Davide, e ora voglio sentire Laura da Udine, una radioascoltatrice. Buongiorno Laura. Buongiorno signor Davide, saluti a tutti. Ecco, io quando sento profumo di pane, la fragranza, entro nel panificio e compro. Poi io vado in un ipermercato, fanno il pane sul luogo, un pane veramente buono, biologico, non ha il profumo di una volta, però è abbastanza buono, si può sempre recuperare poi il giorno dopo, perché quando è buono dura veramente. Grazie. Bene, grazie Laura. Grazie Laura. Grazie a lei. Tutti alla ricerca del profumo. Io questo profumo lo sento sempre meno in giro per le panetterie. Comunque, forse sbaglierò panetterie. Sentiamo anche Carla da Napoli. Buongiorno Carla. Buongiorno. Salve. Senta, io volevo delle informazioni, perché io ho scoperto da poco, proprio da un piccolo panettiere così artigianale, che aveva esposto un cartello in cui si dichiarava che il pane prodotto da questo piccolo forno fosse senza additivi. Per cui ho chiesto come mai, quali additivi mettono nel pane, e loro mi hanno risposto che in genere molti panifici usano un enzima che si chiama l'alfa-amilasi. Bene, che dovrebbe... prego, se ce, sì. ce lo facciamo spiegare magari da Francesco La Sorsa. Sì, vuole sapere da me la risposta? Sì, volevo sapere. Ma le alfa-amilasi, alfa e beta-amilasi sono presenti già nelle farine, loro favoriscono soltanto il processo fermentativo degli impasti, non sono altro, non è qualcosa... Guardatore, io vorrei chiarire un termine soltanto. Il termine miglioratore è un po' improprio. Esistono dei coadiuvanti, no? Tant'è che il Ministero della Sanità parla di coadiuvanti a seconda di quelli che vengono usati. Miglioratore tende ad ingenerare un po' la faccenda. Sembra come se l'uso di questi coadiuvanti possano servire a migliorare, a falsificare quello che è il prodotto pane finale. Mi spiego? Bene, sì, così questo... non è, cioè... così non è, perché sono diversi coadiuvanti che a seconda del loro uso possono aiutare la conservazione, possono essere degli antiossidanti, degli antimuffo e via dicendo, nel pane specialmente conservato. Va da sé che se parliamo di pane fresco prodotto in giornata, prodotto e venduto in giornata, non ha bisogno di questi coadiuvanti. La freschezza del prodotto giornaliero ne certifica già la sua assenza in linea di principio. Bene, guardi, su questo poi diciamo che allargheremo il raggio a moltissimi esperti che abbiamo chiamato proprio per questo tema. Bene, Davide Longoni, abbiamo sentito il presidente della Feder Pianificatori che parlava di coadiuvanti. Ecco, quali sono i coadiuvanti più diffusi? Diciamo, tu ne usi? Ma io per una mia scelta professionale non uso nulla, perché mi percepisco come un artigiano che lavora delle materie prime, cogliendone tutti i pregi, i limiti e eventuali difetti. E con la mia capacità professionale riesco a lavorare la farina anche artigianale, pur con qualche difettuccio, ma ottengo comunque un buon pane senza utilizzare nessun prodotto di additivi o coadiuvanti o miglioratori che più si voglia. Quindi diciamo che rimane, cioè la ricerca della farina ottimale rimane la cosa più importante, mi sembra di capire, così Davide? Se ne può fare meno e se ne deve fare meno, perlomeno il panificatore artigiano, come lo intendo io, ne può fare meno e ne deve fare meno. Bene, grazie a Davide Longoni. Sentiamo Piero dalla provincia Monza Brianza. Buongiorno Paolini e complimenti per la trasmissione e grazie per avermi fatto presente la vostra trasmissione. Volevo chiedere, forse mi ha già anticipato il signor Longoni, la qualità del suo pane sicuramente è indubbia. L'unica cosa, visto che usa materie prime e addirittura non usa conservanti, come mai il pane, per dire, già il giorno dopo non è così fragrante come dovrebbe essere? Beh, guardi, io devo dire che molte volte ho usato il pane di Davide Longoni e devo dire che mi dura una settimana ed è straordinario. Credo che l'importanza sia la durata nel tempo, è evidente che molto profumo se ne va il giorno dopo, questo mi sembra chiaro. Bene, sentiamo, abbiamo con noi anche Dario Bressanini. Dario Bressanini è un professore ricercatore presso il Dipartimento di Scienze Chimiche e Ambientali dell'Università dell'Insubria, ma soprattutto credo sia il più attento chimico ai problemi del cibo e molte volte va anche controcorrente e non ha paura delle sfide quando va controcorrente. E allora proprio a Bressanini voglio chiedere, Bressanini, ma cosa sono questi miglioratori? Ciao Davide, allora miglioratori è un termine diciamo piuttosto generico che in realtà include una serie di sostanze, di cose che vengono aggiunte che hanno diciamo capacità diverse. Quindi ci sono ad esempio delle sostanze assolutamente innocue come ad esempio non so, la vitamina C, l'acido ascorbico o la lecitina, che vengono usati, ad esempio la lecitina viene usata ad esempio per migliorare l'estensibilità dell'impasto, quindi per facilitare l'impasto. Altre cose, ad esempio non so, gli estratti di malto, che sono sostanzialmente zuccheri più o meno complessi, si aggiungono per dare una colorazione migliore alla crosta del pane, che quindi diventa un po' più dorata di quello che sarebbe. Poi ci sono altre sostanze invece che vengono aggiunte per migliorare, per diciamo rendere per ritardare diciamo, il processo per cui il pane diventa duro, ecco, quindi sono i monoidi gliceridi che quindi mantengono morbido il pane per più tempo. Ecco Dario, sono tutti diciamo sistemi che sono leciti, sono ammessi dalla legge questi? Sì, sì, certamente, sono tutte cose diciamo approvate che quindi diciamo nelle dosi utilizzate non danno nessun tipo di problema per l'alimentazione. È chiaro che è più secondo me una questione di correttezza commerciale nell'indicarlo, per cui chi acquista un pane dovrebbe sapere, per esempio diciamo, per la vitamina C o per la lecitina non c'è nessun problema, però dovrebbe sapere se per esempio il pane è stato cotto 3 giorni prima e io me lo trovo morbido perché c'è stata un'aggiunta di emulsionanti e di stabilizzanti oppure no, ecco, quindi io ne farei più una questione di correttezza, diciamo trasparenza verso il consumatore. Senti, ancora una volta comunque abbiamo diciamo per così dire una informazione alimentare carente insomma anche sul pane, diciamolo. Queste cose tra l'altro vengono aggiunte spesso non direttamente dai fornai, ma vengono aggiunte direttamente dai molini, cioè i fornai comprano delle farine che spesso sono già addizionate, il che in linea di principio non c'è niente di male, appunto, perché a volte appunto sono semplicemente degli aiutini a delle farine che magari ma non sono proprio di eccessa qualità. Bene, rimani con noi, sentiamo ora Luca Vecchiato. Luca Vecchiato è l'ex presidente della Feder Panificatori e attualmente presidente del Sindacato Panificatori di Padova e proprietario di un vecchio forno, appunto di un forno storico. È stato lui anni fa o qualche mese fa a lanciare diciamo questo come SOS, arriva tanto pane dai paesi dell'est e non viene dichiarato come tale. Buongiorno Vecchiato. Buongiorno a voi, buongiorno a lei e ai suoi ospiti ed ascoltatori. È veramente... Mi scuso, prego. Mi permetta di puntualizzare un paio di interventi che ho sentito finché ero in attesa, che la cosa mi sembra abbastanza doverosa. Intanto, i molini non addizionano le farine, le possono correggere da un punto di vista glutinico, perché per legge questo non è consentito, a meno che non si tratti di semi lavorati già pronti o parzialmente pronti, di cui comunque il panificatore è cosciente quando li utilizza. E questa è la prima cosa. La seconda, molto importante, il concetto di pane artigianale, come lo intendiamo in Italia con le 25.000 imprese che ho avuto l'onore di guidare per 3 anni, rappresenta il concetto quello classico, farina, acqua, sale e lievito. È un'industria che si appoggia agli emulsionanti, agli enzimi. È estremamente difficile, e ringraziando il Dio, che il pane artigianale, come noi lo troviamo nel nostro panificio tutti i giorni, fatto da 25.000 piccoli artigiani, sia prodotto in questa maniera. Semplicemente perché l'arte del pane sta nel fare un pane di qualità con 5 ingredienti. l'ascoltatore diceva il pane non dura più come una volta. È vero, non dura più come una volta perché le pezzature che noi usavamo una volta molto grandi, perché all'epoca il consumo del pane era molto elevato, davano anche una percentuale di umidità all'interno del prodotto che lo conservavano meglio. Poi, ultima e purtroppo non ultima, la qualità media del grano panificato in Italia è calata e quindi questo si ripercuote anche sulla durabilità. Però posso garantire all'ascoltatore, un bravo fornaio artigianale che fa il pane fresco tutti i giorni riesce a dare un prodotto che conservato con le dovute maniere dura tranquillamente due giorni e mezzo. Bene, lei ha sgombrato il campo da molti, così, da molti dubbi, comunque rimanga con noi. Sentiamo Guido da Ferrara, un radioascoltatore. Buongiorno Guido. Buongiorno. Niente, io si tratta di questo, io abito a Ferrara dove c'è forse uno dei pani definiti più buoni del mondo, caratteristici, la coppia ferrarese, però a me piace mangiare la fila insipida, per cui non mi sfama quella che compro dal fornaio e me la faccio a casa. Lievito di birra, farina, acqua, ci metto magari del lievito di pasta acida. Avevo comprato anche la macchina per fare il pane, ma l'ho riportata indietro perché mi piace anche impastarlo, viverlo, farlo lievitare, infornarlo e mangiarlo. Bene, grazie, ecco, grazie a Guido da Ferrara, una delle capitali del pane in Italia. Io voglio richiamare Davide Longoni perché appunto sul suo pane è stata fatta un'annotazione. Davide, sei ancora in linea? Sì, sì. Eccomi. Allora, il tuo pane dura ma il secondo giorno ha meno profumo. Ma molte volte c'è questo frainteso che il profumo del pane si modifica. Cioè, appena sfornato ha profumi più intensi, tostature più intense, poi si modifica col passare dei giorni. È un po' questo, magari il malinteso che c'è da ora sul pane fresco. Se un pane è ben conservato, chiaramente in un sacchetto non deve non prendere molta aria, ma deve stare comunque a respirare, non deve stare in un sacchetto chiuso di plastica, tende ad evolversi. E quindi sento il mio pane ha un'evoluzione, ha fatto quasi delle verticali con dei clienti, con degli amici, proponendo pane di 15 giorni, di una settimana, di 5 giorni, di 3 giorni, di un giorno, per vedere lo stesso pane nei vari giorni come che evoluzione ha avuto. E certo, il profumo è differente, ma è un po' il gioco dei prodotti vivi, come un vino o un formaggio che modifica il proprio gusto e profumo con l'andare dei giorni. Bene, grazie, grazie a Davide Longoni. Voglio tornare a Bressanini. Ciao Dario, di nuovo. Volevo chiederti, secondo te, che tu sei anche un grande degustatore, si può distinguere un pane appunto che contiene additivi anche se ammessi da un pane invece che contiene solamente i 5 ingredienti, diciamo, naturali? No, direi di no, nel senso che è abbastanza difficile, perché certe sostanze vengono aggiunte proprio per modificare, migliorare la lavorazione proprio del pane. Una volta che viene cotto, alcune di queste sostanze semplicemente scompaiono. Certamente se io compro un pane fatto con lievito madre e allora dopo 3 giorni è ancora buono ed è molto morbido. Altri pani che partono, come giustamente ha detto uno degli ospiti, partono da farine che purtroppo sono di qualità ormai scadenti, più bassa del passato. È chiaro che questi miglioratori possono parzialmente supplire a questa mancanza di qualità, però dopo 2 o 3 giorni comunque si fa sentire, ma non si può capire se è semplicemente la farina che è di scarsa qualità oppure c'è stato aggiunto anche un miglioratore, ma perché la farina comunque rimane di scarsa qualità. Bene, grazie, grazie a Dario Bressanini. Torniamo a Luca Vecchiato, ritorno alla domanda iniziale. È veramente grosso il fenomeno delle importazioni? È un fenomeno importante, e il problema del fenomeno è che è un fenomeno che nel quale la legge che consentito alla legge. Quindi siamo in un periodo di globalizzazione, il pane può arrivare anche da altre parti d'Europa. Quello che noi non abbiamo come regolamento è informare il consumatore da dove viene, quando è stato fatto e come. E questo è il grande problema che ha suscitato questa polemica. Bene, grazie Luca Vecchiato per la sua chiarezza. Sentiamo Antonello dalla provincia di Milano. Buongiorno Antonello. Buongiorno, scusate, io mi sono collegato da poco e quindi non so se avete già detto la differenza tra pane fatto con farina macinata a pietra o pane fatto ormai con quelle tramogge che usano ormai tutto il mondo usa, che surriscalda talmente tanto la farina quando viene macinato che tutti gli oli essenziali omega 3, omega 6 e tutto il resto viene bruciato e quindi poi vengono riaggiunti in altro modo, ma ormai è tutto sofisticato. Guardi, le faremo rispondere perché ho diversi mugnai che chiameremo, che mugnai è un nome simpatico, ormai magari non si chiamano più mugnai, però ne ho parecchi, quindi le farò rispondere su questo sicuramente. No, ma sicuramente capisco, ma quello che volevo dire è che ormai sono stati concessi dai governi precedenti 350 tipi di additivi diversi per correggere il pane e con l'ultimo governo Berlusconi ha aggiunti altri 50, siamo arrivati a 400. Il fatto che il pane si secchi il giorno dopo è perché ormai la farina viene talmente elaborata da acquisire così tanta acqua, in quanto l'acqua costa niente rispetto alla farina, che il pomeriggio il pane diventa già secco e questo l'abbiamo constatato tutti. Bene, noi abbiamo in linea Susanna Grego, che è medico e cardiologo e ricercatrice appunto su questi argomenti ed ha scritto un bellissimo articolo sulla rivista Bibenda, Il pane ferito. Buongiorno Susanna. Buongiorno Davide. Buongiorno. Allora, a voi. Produce il pane addizionato produce ipertensione? No, non è questo il passaggio, diciamo, principale. No, assolutamente, e non, prima di tutto non ci sono evidenze, non ci sono studi, ma non ci sono studi perché non ci sono stati pensieri a questo riguardo, né ovviamente si possono fare studi se non si conoscono gli elementi che costituiscono il pane. Cioè il problema vero è che ovviamente noi mangiamo pane pensando che sia fatto solo di farina, acqua e lievito, ma in realtà il pane negli ultimi, diciamo, decenni ha avuto una spinta industriale molto forte, una spinta produttiva molto forte, e per questo abbiamo capito, perché ci siamo informati, che vengono utilizzate sostanze che sono definite additivi e che per questo la legge non ne prevede la segnalazione sul pane. Ecco, il passaggio non è necessariamente, cioè non è il pane fa venire l'ipertensione, il pane rappresenta una delle fonti più importanti di apporto di carboidrati, cioè dell'ingrassamento della popolazione italiana. Ecco, ma questi miglioratori sono tutti sani, anche se sono ammessi dalla legge, oppure possono avere così delle ripercussioni sulla salute? Certo che tutto può avere ripercussioni sulla salute. In teoria i miglioratori dovrebbero essere prodotti da biotecnologie, quindi essere controllati, eccetera, eccetera. Però esistono delle opinioni molto diffuse anche su internet, perché voglio dire l'argomento è stato ampiamente dibattuto e molti dicono che questi miglioratori, questi enzimi che servono per accelerare e migliorare la produzione del pane, vengano tratti ovviamente direttamente dal pancreas del maiale. E questo, per quanto ovviamente si dica che i miglioratori vengono distrutti dalla cottura del pane stesso, questo ovviamente potrebbe non essere una buona idea, insomma. Susanna, rimani con noi perché ora passeremo a parlare di farine. Bene, io chiedo a Piero Gabrielli, che è direttore marketing del Molino Quaglia, un molino molto importante oggi che serve tantissimi panettieri. Quindi volevo chiedere questo. Innanzitutto un radioascoltatore, mi sembra sia intervenuto, ha detto che la qualità del grano è veramente calata di qualità, soprattutto quello che arriva dall'estero. Volevo chiedere a Gabrielli se questo è uno dei punti principali per cui, diciamo, diffusamente non si mangia un pane straordinario. Dottor Parini, buongiorno. Sì, io ho sentito l'intervento del suo ascoltatore. Io le posso dire in che modo noi siamo abituati a programmare lo sviluppo delle farine, la produzione delle farine, perché effettivamente è vero, il grano può avere una qualità che varia nel corso del tempo perché dipende dalle annate, dipende dal clima, dipende dai terreni, dipende da molti fattori che non sono controllabili. Per cui noi preferiamo fissare uno standard qualitativo del nostro prodotto e andare a cercare direttamente nei campi il grano che ha quelle qualità in termini di proteine, di caratteristiche, che poi danno anche le caratteristiche del pane, in modo tale che questa qualità si mantenga quanto più stabile e costante possibile. Ecco, e volevo chiederle una seconda cosa che più volte, diciamo, è rimbalzata, quella che si parla di additivi nelle farine. Ecco, gli additivi finiscono nelle farine o è il panettiere che le aggiunge? Ma io non credo che sia questo il problema. Mi ha molto colpito l'intervento di due ascoltatori che hanno detto delle cose secondo me sensate. Cioè l'esigenza di aggiungere qualcosa deriva dal fatto che qualcuno ha tolto qualcosa. Per cui noi dal nostro punto di vista riteniamo che ciò che molto spesso venga tolto al pane che troviamo nelle rivendite, nei laboratori artigianali, eccetera, sia da un lato una farina di qualità alta e dall'altro anche una capacità tecnica di lavorarla. Mi spiego meglio. Noi siamo abituati, nel momento in cui forniamo un prodotto che riteniamo di costruire con un'etica, oltre che con una capacità di costruirlo, anche le istruzioni perché questo prodotto venga lavorato, per esempio i giusti tempi di lievitazione, per esempio l'uso del lievito madre, delle tecniche di cottura che permettano di dare doratura senza dover necessariamente aggiungere qualcosa che dori la crosta. Credo che forse la riscoperta di tecniche che peraltro oggi tante massaie stanno riscoprendo per il piacere di farlo, possa giovare sia al panettiere sia al pane. Bene, io la ringrazio Gabrieli e sentiamo Sara. Grazie da Venezia, una radioascoltatrice. Buongiorno Sara. Buongiorno. Mi dica. Niente, io fino adesso non ho sentito nessuno parlare del sale, il contenuto del sale nel pane. E uno dei motivi per cui io ho iniziato a fare il pane in casa è proprio questo: ogni volta che mangiavo un pezzetto di pane da solo tu noti veramente che è salato, mentre che quando lo mangi insieme col cibo questo non si nota. E le persone che sono ipertese o che hanno problemi di ritenzione di liquidi nel corpo non se ne rendono conto magari che stanno mangiando tanto sale che peggiora la situazione. Bene, guardi, chiediamo la consulenza a Susanna Greco se ha sentito la domanda. Allora, ho sentito bene, la signora ha ragione, e tuttavia il messaggio sale nella popolazione italiana è arrivato, e nel senso che al problema sale, bisogna ridurre il sale nella dieta, l'italiano mi risponde: io mangio senza sale e mangio il pane sciapo, quindi pane sciapo vuol dire pane senza sale. Quindi il problema è che gli italiani hanno capito che devono ridurre il sale nella dieta, rimane il problema dell'apporto calorico e la qualità dei carboidrati che vengono ingeriti tutti i giorni, insomma. Ecco, puoi dare una risposta velocissima perché il tempo corre, cosa sono le amilasi? Sì, beh, le amilasi sono degli enzimi che noi produciamo, li produce il pancreas, è il nostro pancreas, e servono per scindere le molecole di amido per la prima digestione, diciamo, dei carboidrati. Il problema è che queste amilasi vengono aggiunte nel pane, diciamo esternamente, e normalmente le farine lo contengono, ma poi vengono nel processo di raffinazione, queste amilasi vengono perse, poi vengono riaggiunte, e questo fa sì che le molecole vengano scisse, diciamo, prima, e quando noi mangiamo il pane le farine, il pane così viene digerito molto più rapidamente e ha un indice glicemico, cioè spinge la glicemia molto più rapidamente, e questi picchi glicemici sono estremamente dannosi per la nostra salute. Bene, grazie a Susanna Greco, grazie, ti ringrazio. E ora grazie, abbiamo con noi un molitore importante, abbiamo un mugnaio importante, abbiamo Renzo Sobrino di Cossano Belbo. Buongiorno Sobrino. Buongiorno. Senta, la differenza, scusi, prego. Però noi siamo alla Morra, non siamo La Morra, mi scusi, prego. Un errore, vero. Buongiorno. Volevo chiederle questo: la macinatura a pietra, ecco, cosa dà di apporto così migliorativo al grano che viene, che, appunto, di cui avviene la molitura? Diciamo che la macinazione con le macine in pietra naturale, più che aggiungere, non tolgono nulla, nel senso che se noi maciniamo un grano di qualità con una macina in pietra, si produce dalla macinazione con la macina in pietra si produce farina integrale, e questa farina integrale contiene tutti gli elementi che erano presenti nel chicco, cioè il chicco nel suo insieme, compreso il germe che durante la fase della macinazione a pietra viene spappolato con il resto della farina e finisce nella farina. Quindi una farina integrale, o comunque una farina macinata da mulino a pietra, è la migliore proprio perché non ha nessuna forma di separazione. Poi è una macinazione molto dolce, la macina in pietra è una macina che ha un regime di rotazione di circa 100 giri al minuto più o meno, e quindi non surriscalda la farina e soprattutto, appunto, non estrae nulla, non toglie nulla dalla farina. Bene, grazie Sobrino, rimanga con noi. Sentiamo Diego da Milano. Buongiorno, io volevo avere questa informazione informazione. Le macchine che si possono comprare nei vari centri commerciali ad uso domestico per la produzione del pane in casa, come vengono ritenute dagli esperti e poi come fare a riconoscere una farina di qualità? È possibile distinguere le farine di qualità rispetto ad altre di scarsa qualità, Sobrino? Beh, quando si va ad acquistare della farina e la si acquista in una confezione, se non si conosce la storia del mulino che la produce, è difficile. In effetti sui sacchetti, sulle confezioni non sono riportati dati che ci dicano se è una farina di qualità. Poi primo bisognerebbe anche capire che cosa si intende per farina di qualità. Il nostro, che è un piccolo mulino artigiano, per noi la farina di qualità è quella prodotta con dei grani locali, non soltanto italiani ma in questo caso piemontesi, conservati senza uso di sostanze chimiche. Noi fra l'altro maciniamo cereali biologici, quindi per noi la chimica è assolutamente tabù, e quindi conservata senza nessuna forma di conservante chimico, macinata possibilmente o con mulino a pietra per produrre farine integrali o semi integrali, o eventualmente anche con un mulino a laminatoio, che è quello che si utilizza per produrre le farine bianche, però mulini che abbiano una certa delicatezza nel lavorare i cereali, nella produzione delle farine. Purtroppo appunto capisco che chi deve comprare una farina non ci sono dei dati specifici su cui fare riferimento, tranne quelli appunto di conoscere il produttore o il mugnaio. Quindi un fatto di fiducia, insomma. Fondamentalmente sì, perché appunto non è prescritto, non certo. Ci sono prescrizioni di legge, certo. E nessuno lo fa, addirittura si sa che ci sono anche, l'avete anche detto prima, che non vengono nemmeno riportate sulle confezioni eventuali, diciamo, aggiunte, insomma, correzioni. Certo. Quindi purtroppo da questo punto di vista non ci sono molti aiuti per chi deve acquistare una farina. Quindi l'informazione alimentare anche in questo caso è veramente carente. Grazie Sobrino, la ringrazio. Sentiamo Sergio dalla provincia di Cremona. Buongiorno Sergio. Buongiorno a lei. Senta, io seguo sempre la sua trasmissione. Io acquisto del pane fatto con lievito madre e mi sembra più digeribile. È una mia impressione oppure no, lei ha perfettamente ragione. Oppure qualche cosa c'è? No, qualche cosa c'è. Lei ha perfettamente ragione, caro Sergio. Continui a prendere pane fatto con lievito madre. Bene, continuiamo con un altro ospite, un altro, diciamo, chiamiamolo così, mugnaio, sempre piemontese, perché sembra veramente che i mugnai di grande qualità, sì, ci sono in tutta Italia, ma c'è una piccola concentrazione di piccoli mulini proprio in Piemonte. Sentiamo Fausto Marino del Mulino Marino. Buongiorno Fausto. Buongiorno Davide, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sì. Io, prego. No, volevo dire che in Piemonte abbiamo una grandissima tradizione e un grandissimo insegnamento che viene dai nostri nonni. Io faccio parte con mio fratello Fulvio della terza generazione di mugnai, quindi consideriamo l'isola felice, noi ci riteniamo fortunati. Ecco Fausto, da dove arriva il grano, il tuo grano? Allora, noi facciamo solo ed esclusivamente cereali biologici. La provenienza dei nostri grani è controllata e garantita, e questo, la provenienza è italiana, e questo ci ha permesso per una grandissima selezione, un grandissimo rapporto che abbiamo con chi ogni giorno fa, chi ogni giorno produce, e quindi l'azienda agricola, il contadino. Questo ci permette anno dopo anno di mettersi in accordo per seminare le migliori varietà possibili per l'annata, quindi una biodiversità in campo che viene, se mi consentite il termine, programmata prima della semina. Ecco, a un panettiere che compra, diciamo, la tua farina, quanto costa di più rispetto a una farina, diciamo, altre farine che sono sul mercato, magari, diciamo, quelle che arrivano dall'estero o da altro? Ma noi facciamo macinazione a pietra naturale sia sulle farine bianche che sulle farine integrali, facciamo 2 quintali all'ora, mediamente il prezzo nostro per una farina tipo 2 macinata a pietra naturale di grano tenero, quindi per panificazione, si aggira intorno all'1,70 euro, all'1,50 euro al chilo. Bene, sentiamo, rimani con noi Gino dalla provincia di Milano. Buongiorno Gino. Buongiorno. Volevo segnalare che almeno qui abbiamo la fortuna che al Gorgonzola, almeno io, visto che a me piace il pane casareccio, c'è un mini market che sarà un anno o due che fa arrivare il pane direttamente dalla Terza. Ho visto su internet che la Terza è un comune, sì, provincia di Taranto, al confine con la Basilicata, Su internet dunque dice che sono cinque, hanno fatto un consorzio, cinque panifici, arriva un pane proprio casareccio come una volta. Bene. Che insomma è Bene. Molto buono. Sì, ci sono molti pani, non dimentichiamo Altamura, quindi perché bisogna... Sì, no, ma il fatto che io qua lo trovo... Genzano, poi ce ne sono... certo, voi lo trovate perché arriva ogni giorno, magari... Arriva due volte alla settimana, per cui è formato sono... da 2 chili, però uno lo può comprare anche a mezzo chilo. Ci sono problema. Pani che arrivano alla stazione centrale con i pullman dalla Puglia, ce ne sono veramente diversi. È veramente spettacolare questa ricerca di andare a trovare il prodotto altrove, perché sicuramente in giro per l'Italia c'è anche pane di grande qualità, ma c'è anche pane veramente molto ma molto scarso. Poi avevo in linea un radioascoltatore che voleva chiedere la differenza tra lievito di birra e lievito di madre. Siccome è molto lunga la risposta e manca un minuto alla fine di questa trasmissione, caro Massimo, cercheremo dalla provincia di Ferrara, cercheremo prossimamente, se torneremo su questo argomento, perché è sempre molto molto sentito il pane, magari di farti spiegare esattamente la differenza tra il lievito di birra e il lievito madre. Bene, poi potrei continuare perché ci sono decine e decine di sms che parlano, appunto, offrono indirizzi, dicono questo: io compro il pane da questo panettiere, buonissimo. Credo che sia un aspetto molto positivo questo, che un consumatore voglia comunicare la qualità del suo offerente il pane, quindi del suo panettiere. Credo che sia una bellissima cosa e vedo che ce ne sono decine e decine. Questo significa, appunto, che non tutto il pane è da buttare, anzi c'è buona parte di panettieri che ancora producono molto onestamente il pane. Vorrei fare anche una chiosa che finalmente c'è qualche panettiere in giro per l'Italia che comincia a essere aperto anche la domenica ed offrire pane fresco. Credo che questo sia un passo in avanti molto importante, perché tenere aperto la domenica almeno mezza giornata è un servizio sicuramente che si fa al consumatore. Buona giornata dal vostro gastronauta.